Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. E anche questa settimana parliamo di bollette in questo secondo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, il periodo di bollette, questo inizio di primavera, è periodo di conguagli, come ben sappiamo, insomma, per tutto il periodo precedente. Conguagli che però sono pesantucci, a 3-0. Certo, tant'è che Mirko questa volta l'Adico ha deciso di scrivere all'Authority e farsi promotrice di un esposto, perché non è accettabile che oggi privati ed imprese continuino a ricevere conguagli che si riferiscono a riformulazioni di importi e di bollette che addirittura tornano indietro di 5 anni, con il risultato finale che le persone si trovano migliaia di euro da pagare in un momento di forte crisi. Quindi non sono i conguagli per i consumi invernali, ma addirittura fino al 2008-2009 si arriva. Sì, parliamo praticamente di luce e gas. Cosa accade? Che normalmente le persone pagano regolarmente le loro bollette, sono tranquilli e sereni perché risultano sempre regolari con i pagamenti, con i normali accrediti, eccetera. Improvvisamente, e guarda caso molte volte capita quando una persona decide di cambiare gestore, arrivano conguagli pazzeschi. In particolar modo abbiamo il caso di questa impresa che gli ha dato un conguaglio di 48.000 euro per effetto di conteggi o di conteggi che l'azienda in questo caso ha voluto fare negli ultimi 5 anni a fronte di bollette regolarmente pagate, di cui adesso chiede gli importi e il saldo di delle spettanze. Ovviamente abbiamo detto si parla di un'azienda, per questo l'importo è così alto, insomma, no, 48.000 euro per una famiglia sarebbero davvero improponibili, ma anche per un'azienda evidentemente sono tanti. Certo Mirko, però sei tranquillo che noi all'Adico abbiamo moltissimi casi di persone che purtroppo hanno conguagli di 8, 9, 10, anche 12.000 euro. Certamente per una piccola impresa come questa, ma parliamo di 48.000 euro, sicuramente comunque una batosta, in particolar modo in questo momento di crisi. In un momento di crisi in cui il sistema comunque non aiuta, perché se da una parte abbiamo Equitalia che applica interessi di mora e applica sanzioni incredibili con tassi che sono superiori a quei tassi di usura, da quell'altra ci troviamo che il consumatore o l'impresa, ma noi in questo caso rappresentiamo anche il consumatore, fondamentalmente in regola con quelli che sono i pagamenti di tutte le bollette, si trova a ricevere questi conguagli pazzeschi. E questo, ricordiamoci e teniamo ben presente, che è un pericolo, è un rischio che chiunque di noi può correre, e che penso che oggi valga la pena fare un esposto all'Authority e far presente alcune iniziative che l'Adico con questa vicenda vuole portare avanti, come ha già fatto qualche mese fa in occasione delle raccomandate che molti utenti ricevevano con la data di notifica di 10 giorni, che oggi siamo riusciti a spostare a 30. Ecco, iniziative, dicevi, cosa pensate di fare? Praticamente noi pensiamo di fare che innanzitutto è inaccettabile poter tornare indietro di 5 anni. La seconda cosa, fare in modo che le persone, l'azienda in questo caso, sia obbligata a fare eventuali conguagli entro il marzo dell'anno successivo, in modo che una persona o un'impresa può mettersi tranquilla nei rapporti con la società. E in terzo luogo comunque invitiamo sempre le persone o le imprese o chiunque riceva questi conguagli a rivolgersi all'Adico, perché poi al di là di quelli che sono gli importi, la rateizzazione e quant'altro, vale la pena comunque riprendere in mano tutto, verificare i conteggi, valutare un attimino quali sono gli interessi di mora e le modalità di calcolo, perché poi scopriamo che in questi casi c'è una rivalutazione e una rivisitazione di quelli che sono i scaglioni, che poi alla fine fanno sì che le aziende applicano sempre i massimi, quando in realtà già con l'intervento dell'Adico comunque si può ottenere una riformulazione dell'importo complessivo. Ma come mai arrivano queste super bollette, queste mega bollette, magari non arriva un conguaglio una volta all'anno o due volte all'anno? Beh, molti ci dicono che essendoci il contatore che trasmette la lettura o l'obbligo del fornitore a almeno passare una volta all'anno, queste cose non accadono. In realtà poi scopriamo che le società cosa fanno? Vanno via in maniera abbastanza automatica, non solo su quelli che sono i calcoli presunti, ma anche su quelli che sono effetto delle variazioni del costo, delle tariffe e dei prezzi che durante l'anno o negli anni il mercato comunque subisce per effetto delle fluttuazioni, e quando decidono di applicare o di adeguare quelli che sono gli importi e i costi, prendono in mano tutto e tornano indietro di 5 anni, e quindi il consumatore in questo caso va a subire questa che per noi è una grandissima ingiustizia che deve cessare. Questi conguagli, questo nello specifico, anche gli altri che voi registrate, arrivano dopo un periodo in cui magari le bollette non sono arrivate, oppure le bollette sono arrivate regolarmente ma molto basse? Beh, noi normalmente abbiamo due fenomeni ultimamente che si stanno presentando all'Adico. Il primo è che ci sono delle persone che paradossalmente vogliono pagare le bollette e non gli arrivano le bollette, perché oggi sappiamo che per effetto di quelli che sono i call center, le reti, gli sportelli online eccetera, non c'è più quel rapporto che normalmente c'è una volta con l'utente. Quindi se da una parte non arrivano le bollette, dall'altra comunque ci sono delle persone che, come detto, hanno sempre pagato regolarmente e si trovano questi autentici salassi. Peggio ancora, questa è anche la beffa che tante volte capita quando uno guarda caso ha cambiato gestore e sembra quasi che qualcuno aspettava il momento per mandargli il ricordino. E in tutta questa vicenda comunque poi scopriamo che anche l'intervento dell'Adico comunque porta sempre degli effetti significativi, perché normalmente quando interveniamo diffidiamo l'ente, cerchiamo sempre di invitiamo sempre la società ad applicare i tariffari minimi, lasciando perdere quelli che sono gli scaglioni superiori. Si può pensare di attivizzare, ma in particolar modo il rischio è quello che la domiciliazione cartacea di una bolletta, in questo caso di un conguaglio, possa arrivare successivamente a un accredito bancario, e questo poter portare delle famiglie o delle imprese nello sconforto, nella disperazione. Ecco, questo nel caso dei pagamenti col RID, no? Per cui la bolletta comunque viene pagata dalla banca, magari tu te ne accorgi quando o a ridosso dell'effettivo bonifico. E quindi due consigli che possiamo dare a chi si vedesse arrivare bollette stranamente o anche giustamente magari alte, perché effettivamente magari i consumi sono stati fatti, cosa è bene fare? Noi innanzitutto, come consiglio, diciamo sempre prima di pagare di contattare almeno l'Adico, poi chiunque può decidere di contattare chi vuole, perché in questo caso per noi la cosa più importante è scorporare subito gli interessi di mora, verificare gli interessi, il tasso di interesse che viene applicati, riformulare completamente i calcoli tenendo conto, come ho detto, non di stagione di consumo ma quello che è almeno la tariffa minima. Poi se le persone possono sapere che possono rateizzare l'intero importo, e il consiglio è quello di bloccare a debito bancario, perché non vorrei mai che in qualcosa che può essere anche un'attività di collegamento tra l'impresa e l'ente, l'Adico, qualcosa non venisse trasmessa e una persona si trova a sconfinare con i conti o a trovarsi a debiti bancari che possono dopo trovarsi anche beffati da eventuali interessi che la banca può applicare su un debito che le aziende o le persone percepiscono a fronte di quello che è una situazione imprevista. Poi i consigli sostanzialmente non ci sono, ci auguriamo solo che l'autority sia prenda atto della nostra segnalazione, della nostra iniziativa, e che questo atteggiamento da parte delle società cessino, perché lo riteniamo veramente indecente. Con questo allora ci fermiamo, appuntamento la settimana prossima con l'Adico per altri due argomenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini, alla prossima. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.